sento davvero spesso. Comunque stanno le cose, mi sento in questo modo, non mi piace per niente. Mi chiama patato, e questo è tutto quello che so. È davvero imbarazzante, altro che no. Sento dentro, e questo rimane.